E quando ancora le sorti della guerra erano tutt'altro che decise, americani, russi e francesi più che gli inglesi si diedero da fare per accaparrarsi più scienziati che potevano. Alleati sì, ma come ogni buon alleato lungimirante sa, alleati lo si è oggi, domani chissà. È così che prima, durante e subito dopo la guerra si mise in piedi una gigantesca caccia a chi fosse in grado di inventare e costruire micidiali armi da guerra, senza guardare in faccia nessuno, e quindi per esempio salvando dalle loro responsabilità anche numerosi scienziati nazisti. Nel 1942 gli americani realizzarono un piano in accordo con uomini della resistenza per portare in salvo il fisico danese Niels Henrik Bohr. La sapeva troppo lunga sui fenomeni della fissione dell'uranio per correre il rischio che cadesse nelle mani di Hitler. Qualche preoccupazione tuttavia era destata dalla nota distrazione dello scienziato. Sembra che scendesse sistematicamente la fermata sbagliata del tram, o che accendesse fino a 50 fiammiferi, ecco, prima di rendersi conto che la sua pipa era vuota. Agirono di notte, lo andarono a prendere, lui lo sapeva ed era pronto, e tutto sembrava andare per il meglio. Sarebbe passato in Svezia sotto il naso delle sentinelle tedesche e poi tramite un moschito dell'aviazione inglese sarebbe stato trasportato in America. A fuga iniziata tuttavia, improvvisamente Bohr si ferma. Si era dimenticato a casa qualcosa di importante per l'industria nucleare, una certa quantità di acqua pesante nascosta in una bottiglia di birra, messa astutamente fra altre bottiglie di birra nel frigo. Non voleva che i servizi segreti tedeschi la trovassero e riuscì a convincere i suoi accompagnatori a tornare indietro. Si riprese la sua bottiglia e nonostante l'andirivieni tutto andò per il meglio. Pochi giorni dopo, pur senza prender parte alla realizzazione della bomba atomica, pochi giorni dopo collaborava al progetto Manhattan. Della distrazione di Einstein ne sanno qualcosa tutti, ma in particolar modo ne hanno potuto sapere parecchio Mileva, la prima moglie, e i figli e gli amici più intimi. Fra questi ce ne sono due la cui distrazione è rimasta leggendaria. Michele Besso era un ingegnere vicentino che, incontratosi con Einstein nel 1896, a una serata musicale a Zurigo, ne divenne amico e validissimo collaboratore, nonostante i giudizi non proprio lusinghieri che si sentiva accollare, compreso quell'episodio che Einstein amava raccontare, in cui Besso venne incaricato di ispezionare una centrale elettrica. La sera in cui doveva partire arrivò tardi alla stazione e perse il treno. Il giorno dopo fu la stessa storia, riperse il treno. Il terzo giorno il treno lo prese. Il terzo giorno il treno lo prese, ma una volta che ci fu sopra si era dimenticato del perché, e all'arrivo dovette telegrafare alla sua azienda per sapere cosa ci faceva, dove si trovava. Fritz Haber, che credo fosse un fisico, fu tanto amico da Einstein da assisterlo nelle pratiche di divorzio da Mileva nel 1917. Prima ancora che per l'aver prodotto con la propria azienda il famigerato Zyklon B, che era il gas usato dai nazisti per uccidere nelle loro camere a gas, camera dove peraltro finirono anche alcuni dei suoi stessi parenti. Di Haber rimase celebre quell'incredibile distrazione che gli permise di salire sul treno e di partire, dimenticandosi di sua moglie Clara, che aveva lasciato davanti alla biglietteria. Quel complesso costrutto culturale che vuole lo scienziato distratto circola da tempo. Da Talete, che abbiamo già ricordato quando cade nella fossa mentre è intento ad osservazioni astronomiche, no? Qui tocca sentirsi della sua rampognosa accompagnatrice: ma come tu che non vedi le cose che hai tra i piedi, pretendi di capire qualcosa di quelle celesti? Da Talete ad Archimede Pitagorico è tutto un fiorire di letteratura in cui alla genialità nell'affrontare i problemi complessi corrisponde la facilità con cui si annega nel classico bicchiere d'acqua. Ma come ogni prototipo culturale, anche questo fra gli ingredienti ha i suoi presupposti di ordine ideologico. Allo scienziato toccherebbe l'assegnazione di un pensiero forte e fisso fino all'ossessività. Un pensiero tanto totalitario da tagliare di netto perfino i ponti con quel flusso percettivo che consente ai viventi in genere di arrangiarsi alla meno peggio fra gli ostacoli dell'esistenza mondana. Una sorta di primato, insomma, del categoriale puro sul categoriale applicato in un sistema perfettamente autoreferenziale. La distrazione così starebbe allo scienziato come la praticità al filosofo, in quel detto ottimistico mussoliniano secondo il quale il filosofo sarebbe colui che risolve mille problemi nel mondo dello spirito, ma non ne risolve uno solo nella praticità della vita. Correlativamente figurerebbe poi un presupposto di ordine etico. Il distratto, in quanto concentrato nei suoi pensieri, non potrebbe far altro che mantenere una buona condotta. Non potrebbe essere malintenzionato, fa disastri, sì, ma nella franchigia dell'inavvertenza. Non avrebbe né secondi fini, né lingua biforcuta, non starebbe tramando nel piccolo, visto che sta tramando nel grosso. Le persone distratte sono buone, diceva un prince de ligne che non so chi sia. I cattivi e gli imbecilli hanno sempre presenza di spirito. E anche qui, ancora una volta, ho l'impressione che la sacralità concessa erroneamente all'impresa scientifica inneschi un profluvio di indulgenza che sarebbe meglio risparmiarci. Alla concentrazione sul pensiero e sulla sua sublimità singolare, infatti, fa da riscontro, prima dell'eventuale e mai garantita fondatezza e prima di qualsiasi eventuale e mai garantito merito morale, fa da riscontro la distrazione relativa alle persone e alla loro inevitabile sporcizione collettiva. Il cosiddetto disinteresse per il mondo è innanzitutto disinteresse per le relazioni che in questo mondo si intrattengono. Il grande scienziato lussuosamente distratto è anche una disgraziatissima catastrofe umana e sociale. Da questo punto di vista, la beata distrazione è il risultato di una cultura e di un insieme di operazioni mentali ispirate alla più pura grettezza nonché assonante meschinità. Dalla moglie Clara, quella dimenticata alla biglietteria della stazione, il geniale e distratto Haber, a differenza dell'amicone Einstein dalla moglie Mileva, non ha bisogno di divorziare. Buttata via la propria carriera di studi di chimica, dopo anni di depressione, Clara Haber si ammazza. all'arrivo in America sul Mosquito dell'aeronautica inglese deve essere rianimato. Era un grande fisico indubbiamente, ma distratto com'era, si era messo male la maschera dell'ossigeno. E una volta rianimato, a quel punto può anche rendersi conto che quella preziosa bottiglietta per la quale avevano rischiato la vita in parecchie persone, nonché lui stesso, quella preziosa bottiglietta che aveva nascosto nel frigo, non conteneva affatto acqua pesante. Bottiglietta di birra era e birra conteneva. Nella fretta si era sbagliato. Early and I was telling you, it's all about life. And I feel like life is really just like braided hair, cause it's got like twist. You know about braiding? Like twist, you know. Three strands twist together.